Chissà perché hanno fatto le piramidi d'Egitto, non si ride in piedi. Chi lo sa perché, chi lo sa perché, chi lo sa perché. Chissà perché chi nasce cresce sano come un pesce e poi finisce ahimè. Chi lo sa perché, chi lo sa perché, chi lo sa perché. Sarà per caso, un puro caso, che non mi rende persuaso in verità. E più ci penso, più ci ripenso, un certo senso di stupore ancor mi dà. Chissà perché la terra mentre gira è sempre ferma qui davanti a me. Chi lo sa perché, chi lo sa perché, chi lo sa perché. Chi lo sa perché, chi lo sa perché, chi lo sa perché. Chi lo sa perché, chi lo sa perché, chi lo sa perché. Sarà per caso, un puro caso, che non mi rende persuaso in verità. E più ci penso, più ci ripenso, un certo senso di stupore ancor mi dà. Chissà perché la terra mentre gira è sempre ferma qui davanti a me. Chi lo sa perché, chi lo sa perché, chi lo sa perché. Chi lo sa perché, chi lo sa perché.